Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. La riforma del mercato del lavoro, o come dicono alcuni, del diritto del lavoro. Perché lo dico? Perché forse alcuni l'hanno già ascoltato dai nostri GR24, oggi sono stati presentati gli emendamenti del governo al cosiddetto Jobs Act, e quindi il disegno di legge che riforma il diritto del lavoro e prevede tra l'altro modifiche anche sull'articolo 18 per quanto riguarda i neoassunti con un contratto a tutele crescenti, il famoso contratto a tutele crescenti, che vuol dire che tu entri o tutti entrano con contratti, chi li chiama precari o flessibili, e poi man mano che tu stai all'interno del posto di lavoro il tuo contratto viene via via strutturato, e quindi tutele crescenti vuol dire che si dovrebbe arrivare alla fine al tempo indeterminato. Al posto del reintegro, per quello che riguarda l'articolo 18, verrebbe introdotto un indennizzo rafforzato anche per le imprese sotto i 15 dipendenti. Ricordo che attualmente l'articolo 18 tutela con il reintegro disposto dal giudice del lavoro i dipendenti e licenziati in maniera ritenuta illegittima nelle aziende con oltre 15 addetti. Sono i licenziamenti se manca una giusta causa. La tutela è stata in parte attenuata già dalla riforma Fornero, che prevede il solo risarcimento per i licenziamenti legittimi dettati da ragioni disciplinari o economiche. Però resta la tutela piena per i licenziamenti discriminatori, e la Fornero ha esteso in questo caso il reintegro anche alle aziende con meno di 15 dipendenti. Su questo è intervenuto oggi anche il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, e ne parleremo da Torino. Altre dichiarazioni di Renzi per quello che riguarda poi invece il paese, le riforme necessarie e di nuovo gli 80 euro. Nella seconda ora del programma parleremo invece anche di un settore. Faremo nei prossimi giorni, nelle prossime puntate, un'analisi anche di vari settori del Made in Italy, di quella parte della produzione industriale e manifatturiera italiana che meglio sta tenendo. Devo dire che una buona notizia arriva dal mondo della moda, lo dico in coincidenza chiaramente con l'apertura della settimana della moda milanese, perché l'industria della moda sta andando bene nel 2014, è salita del 4% il fatturato e a quasi 62 miliardi di euro, trainato anche in questo caso soprattutto dall'export, più 5%. Nei prossimi giorni avremo anche e torneremo a occuparci del settore agroalimentare, lattiero caseario, cioè vedere quali settori e che indicazioni si possono avere da questi settori che comunque tengono botta e in alcuni casi, vedi appunto il caso della moda, il caso della moda, vanno anche meglio. Ancora per quello che riguarda la borsa, e quindi un appuntamento classico di Focus Economia, faccio notare che oggi va molto bene Milano, o meglio va molto bene rispetto alle altre borse europee, più 1,5%, mentre Francoforte fa più 0,40, Parigi più 0,50, Londra meno 0,07, e che altro poteva fare, l'America più 0,13%. I titoli, World Duty Free oggi cambia completamente verso e fa più 5%, CNH Industrial più 3,80, UBI Banca più 3,70, bene oggi direi la maggior parte delle banche, Azimut più 3,5%, Pop Milano più 3,30, Mediobanca più 3 come il Banco Popolare, Unipol Sai più 2,30, Intesa San Paolo più 2%, Unicredit più 1,80, bene anche Generali più 1,70, Mediolanum più 1,60% come la Popolare Emilia Romagna. Di negativo c'è poco, c'è un po' di lusso, Ferragamo meno 1%, Moncler meno 0,90%, Tod's meno 0,80% e poi Pirelli meno 0,70%. Il numero per i vostri sms resta sempre il solito, 349-238-6666, la pagina di Focus Economia su Facebook, e rapidamente le altre notizie in breve. andiamo avanti con le notizie internazionali. Per quello che riguarda gli Stati Uniti, arrivano dati sul consumi leggermente, sui prezzi al consumo leggermente in calo, meno 0,2%, ma sempre a proposito di prezzi c'è la conferma oggi che l'Italia è in deflazione ad agosto. Dopo lo 0% di luglio, i prezzi ad agosto sono calati dello 0,2%. A livello europeo, visto che oggi sono usciti i dati confermati sull'Unione Europea 18, l'inflazione in Europa è dello 0,4%. Alcuni paesi sono in deflazione, dicevo, oltre all'Italia anche la Spagna meno 0,5, l'Estonia, la Grecia, la Slovacchia meno 0,2, la Bulgaria meno 1%, Polonia e Portogallo meno 0,1. Nel frattempo, il nuovo minimo storico per i tassi dei titoli di Stato tedeschi a due anni. Il BTP tedesco a due anni, il Bund, rende infatti un meno 0,07%. Vuol dire che se tu compri questo titolo, dopo due anni ottieni meno soldi a livello nominale, poi ci sarebbe anche l'inflazione, ammesso che ci sia, di quanti ne hai prestati allo Stato tedesco. Questo avviene perché comunque alcuni investitori possono ritenere più conveniente mettere i soldi nel debito più sicuro che c'è in Europa, nell'area euro, quello tedesco, a costo anche di perderci dei soldi. Pensate infatti che a fronte di 3 miliardi e 340 milioni di titoli di Stato tedeschi offerti con scadenza due anni, la domanda è stata più che doppia, 7 miliardi e 600 milioni di euro. Beh, poi la Germania dimostra come sempre di essere molto pronta a così a un'autocritica, una riflessione su eventuali errori passati, perché il portavoce del ministro tedesco delle finanze Wolfgang Schäuble ha detto: le critiche rivolte alla Germania secondo cui noi investiremo troppo poco sono critiche vuote. E va bene, vedo che la riflessione c'è stata. Non è che la risposta era alla Francia, ma in realtà questo è il ragionamento su una Germania che ha tutti i benefici dello Stato dell'euro, perché se li ha anche meritati, è particolarmente ricca con le esportazioni, la valuta a 1,30 non la indebolisce, anzi è meglio che avere il marco, ma investe molto poco. E già il nostro corrispondente Alessandro Melli raccontava di quanto la Germania potrebbe fare per le infrastrutture tedesche, che possono essere riammodernate, in molti casi vanno riammodernate. Ebbene, il rilievo che la Germania investa molto poco, in questo modo contribuendo allo squilibrio europeo, perché è chiaro che se tu devi rimettere a posto i conti, tagli, vedi il caso della Spagna, dell'Italia e anche della Francia, ma se tu vai bene puoi spendere in senso produttivo, non sprecare. Beh, questa osservazione che si picchi tanto Schäuble è arrivata dal Fondo Monetario, è arrivata dai massimi economisti internazionali, cioè non è solo una posizione francese, è quello che notano tutti gli osservatori, che si accorgono che l'area euro a trazione tedesca è l'unica area del mondo che è ancora in recessione o stagnazione economica. E poi veniamo all'Italia. Allora, vedo già molte domande sul mercato del lavoro, la riforma del mercato del lavoro, un po' di pazienza. Adesso arriveremo anche al tema. No, non penso di sbagliarmi sulla Fornero. La Fornero è sul reintegro per più o meno di 15 dipendenti. Sto cercando di rispondere in maniera così casuale a molti messaggi che stanno arrivando, un po' di pazienza. Però prima di arrivare al mercato del lavoro, oggi il Presidente del Consiglio Renzi ha visitato lo stabilimento a Settimo Torinese dell'Oreal e ha detto: attenzione, l'Italia ha un futuro più grande del proprio passato, questo clima di rassegnazione, stanchezza, di litania del nostro non ce la facciamo deve finire. Devo dire che in parte ha ragione Renzi a dire che continuare a guardare al passato, a quanto bene stavamo negli anni 80, negli anni 90, non serve a nulla, il mondo è cambiato nel frattempo e non tornerà più quel mondo lì, bene o male che sia. E forse è vero che nel paese un po' di visione del futuro, cioè tutte le novità vengono sempre viste come un ostacolo, come una sfiga, come un problema. Beh, insomma, ci sono anche delle opportunità che si aprono, non è che cioè tutto il nuovo, il futuro sia sempre per forza negativo, capito? Si stava meglio prima per alcuni, magari per altri no. Detto questo, e parlo a livello generale, non a livello di congiuntura, Renzi è tornato sugli 80 euro e ha detto: attenzione, non sono stati una mancia elettorale e nel lungo tempo, grazie a questo, i consumi aumenteranno. Ha anche un significato economico la misura del governo del decreto legge 66, i cosiddetti 80 euro, gli 80 euro, non sai che sono cosiddetti, sono 80 euro. E il fatto che non sia immediatamente percepibile negli indicatori macroeconomici non significa che questo non sia un fenomeno che logicamente porterà a rafforzare i consumi. Potrà partire prima, dopo, è un fenomeno naturale. Se tu tutti i mesi ti trovi 80 euro e ti passa la paura che sia soltanto una mancia elettorale, come è stata descritta, e li ritrovi tutti i mesi, è chiaro che avrai un margine di acquisto maggiore, non necessariamente lo metterai nei cosmetici o nella trattoria o nelle bollette, deciderai che cosa farne, ma è evidente che questo fenomeno nel medio periodo esprimerà una sua forza. E poi Renzi anche sulle forze di polizia, o meglio sui sindacati che rappresentano le forze di polizia. Ha detto Renzi: bisogna chiarire in modo inequivocabile che i sindacalisti delle forze dell'ordine non possono permettersi di evocare forme di protesta contro la legalità. Non è consentito a nessuno utilizzare una discussione vera e reale per esercitare una pressione indebita. Se c'è chiarezza, ci mettiamo intorno a un tavolo per parlare del blocco degli stipendi. Quindi dai sindacati delle forze di polizia, secondo il Presidente del Consiglio, è arrivata una pressione indebita. E poi le municipalizzate. Ieri abbiamo portato il caso di una delle municipalizzate che non va male a GSM Verona, giusto perché ci veniva chiesto spesso: non fate di tutta un'erba un fascio, ci sono anche municipalizzate che chiudono, inutile, è vero, però abbiamo anche fatto notare che obiettivamente una su quattro perde, e perde parecchio. Di 2000 manco sappiamo come vanno, perché non presentano i conti, su 8000 che sono. E oggi Renzi ha detto: attenzione, le 8000 aziende municipalizzate italiane, cioè quelle di pertinenza solo dei comuni, che vedono la partecipazione dei comuni, dobbiamo ridurle almeno a un ottavo, cioè l'indicazione che arrivò da Cottarelli, se non ricordo male, da 8000 a 1000. Bisogna riconoscere quanto servono e quanto sono invece il parcheggio per esperienze politiche che non funzionano più. Noi dobbiamo essere capaci di riconoscere quando le aziende municipalizzate sono aziende municipalizzate che servono e quando invece sono il parcheggio per esperienze politiche che non funzionano più. Perché le 8000 aziende municipalizzate italiane sono troppe. Quando un'azienda serve ai cittadini, noi la teniamo. Quando un'azienda serve alla classe politica per perpetuare se stessa, mi dispiace, ma va chiusa, va ridotta, va fatta una cura dimagrante notevole. Passeremo da 8000 a 1000. Ne resteranno solo 1000 di noi, speriamo che non ci si mettano 1000 giorni per passare a 1000 municipalizzate. Andiamo avanti però, fermo restando quanto diciamo da giorni, attenzione, è anche sbagliato allo stesso modo chiedere al governo di fare tutto quello che gli altri non hanno fatto in 20 anni, di farlo in 20 settimane o in 20 mesi, diciamo, troviamo una via di mezzo corretta. Tra l'altro Renzi oggi ha anche annunciato che sulla TAV il governo va avanti, non ha fatto tempo a visitare i cantieri della TAV, i tempi erano troppo stretti, ma ci andrò presto. Tra le modifiche al sistema fiscale di cui spesso parla Renzi, faccio notare che, come anticipa oggi il Sole 24 Ore, ci dovrebbe essere anche un aumento della tassa di successione, che oggi garantisce un gettito di circa 500 milioni di euro l'anno, mezzo miliardo l'anno. Si punterebbe a raddoppiare gli incassi per il fisco, quindi a portarla a 1 miliardo. Attualmente i parenti stretti versano il 4% sulla parte di eredità che eccede 1 milione di euro per ciascun erede. Per gli altri parenti l'aliquota del 6% per la parte sopra i 100.000 euro. Dicevo, come anticipa oggi Sole 24 Ore, probabilmente il prelievo per i parenti stretti potrebbe salire dal 4 al 5%. Con una franchigia però di appena 200-300 mila euro, e quindi allineando l'esenzione italiana a quelle di altri paesi come l'Inghilterra, che ha 400.000 euro di franchigia, cioè la parte dove non si paga, o la Francia, che è molto bassa, 157.000 euro. Per gli altri parenti il prelievo salirebbe dal 6% all'8%. No, ora immagino che, vista la situazione economica del paese, molti parenti, stretti e non stretti, se dovesse essere questa la direzione presa dal governo, cercheranno di tenere in vita il parente più a lungo possibile, oltre che per l'affetto e per il bene e per il fatto che la vita è sacra, anche perché posticipi la tassa di successione, non lo so. Non oso immaginare cosa la fantasia dell'Italia potrebbe partorire su questo. Nonni e nonne tenuti in vita così, artificialmente. Ultima notizia in breve, scusatemi, il commercio con l'estero. Perché lo dico? Perché oggi l'Istat fa notare che a luglio vi è stato un più 1% sull'anno negativi dati mensili. Continuano ad aumentare i problemi per il blocco, o meglio le ritorsioni russe alle sanzioni europee per via della crisi ucraina. Tra l'altro oggi il ministro Martina, ministro delle politiche agricole, ha detto: attenzione, servono nuove regole per gli aiuti dell'Unione Europea al settore ortofrutta, saranno calcolate sulla base delle quantità esportate nel 2013. Per esempio l'Italia ha quote significative di mele, pere con 36.000 tonnellate, kiwi, susine e uva da tavola con 39.000 tonnellate. I danni che sta subendo il settore agricolo italiano dalle sanzioni russe, il settore agricolo purtroppo dell'ortofrutta è quello più colpito dalle sanzioni russe, li ha raccontati il presidente della Confederazione Italiana degli Agricoltori, Dino Scanavino, alla nostra Alessandra Tedesco nel corso della Fiera del Levante, dove Radio 24 è presente sin dall'inaugurazione. I danni sono rilevanti, ci sono quelli diretti che ammontano già, a prime stime, 200 milioni di euro, ma quello che non è contabilizzato è il danno indiretto, cioè noi abbiamo un mercato che si è profondamente modificato, pensiamo all'ortofrutta, pensiamo al latte e ai derivati del latte. L'ortofrutta ha subito un danno diretto e sta subendo un danno indiretto per effetto della mancata vendita di, ad esempio, mele polacche sul mercato russo e quindi di conseguenza il riversamento di queste produzioni sul mercato europeo. Allo stesso modo pensiamo al latte tedesco che non va in Russia. E la Germania è un grande esportatore di latte in Russia e si riversa sul mercato nazionale, con deprimendo i prezzi ad oggi già di 5-6 centesimi al litro. Quindi noi abbiamo un danno indiretto che è difficile calcolare, ma è molto superiore a quello diretto. La situazione russa, se dovesse espandere il blocco ai vini e gli spiriti, cosa che aleggia, genererebbe un problema davvero di uno shock commerciale notevole. Quanto conta il mercato russo per l'export del settore agricolo italiano? Il mercato russo conta molto e noi siamo i primi esportatori in Russia di agroalimentare e abbiamo una tendenza alla crescita. Oltretutto abbiamo una tendenza alla crescita su una fascia di consumatori medio-alta, per cui che riconosce le qualità italiane. Cosa chiedete al governo? Noi al governo abbiamo chiesto intanto che intervenga dal punto di vista diplomatico, poi che si attivi presso l'Unione Europea affinché ci siano interventi straordinari a sostegno delle produzioni con finanziamento di stoccaggi e anche fino anche al finanziare la distruzione. Poi chiediamo che a livello nazionale si attivino le tipiche misure che si attivano durante le calamità, cioè moratoria dei mutui, sospensione del pagamento dei contributi previdenziali per gli operai, in modo da dare respiro alle aziende e da poterle aiutare a uscire da questa fase d'emergenza, sperando che duri poco. E adesso adesso veniamo al nostro sogno che riguarda il mercato del lavoro. No, devo dire che non è male la battuta di un ascoltatore dopo quello che ha anticipato il Sole 24 Ore, che il governo potrebbe aumentare la tassa di successione dal 4% per i parenti stretti al 5%, abbassando la franchigia dal 6 all'8%. Io avevo detto, beh, adesso manterremo in vita i parenti per non farli morire, per non pagare la tassa di successione. C'è qualcuno che mi ha scritto, beh, oppure potrebbero fare morire i parenti prima dell'emanazione del decreto. Ecco, questo sarebbe, diciamo, ecco, è un altro lato, è un'altra faccia della medaglia. Ecco, speriamo di no, meglio tenerli in vita e aspettare di pagare il più tardi possibile un'eventuale tassa di successione aumentata. Il nostro sogno che si arrivi a una riforma del mercato del lavoro, una, però basta, perché ogni governo c'è una riforma del mercato del lavoro, forse neanche la scuola arriva al record del mercato del lavoro. Abbiamo fatto tempo a licenziare la riforma del mercato del lavoro della Fornero, poi è stata licenziata pure la Fornero, adesso siamo a una nuova riforma del mercato del lavoro, vedremo di capire se è l'ultima e la definitiva. E lo chiedo subito, poi ascolteremo anche le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Renzi, lo chiedo subito al senatore Pietro Ichino, che è senatore di Scelta Civica, docente di diritto del lavoro, è uno dei massimi esperti del diritto del lavoro in questo paese. Buonasera, senatore. Buonasera a tutti gli ascoltatori e a lei per primo. Grazie. Allora, secondo lei, poi dopo... Posso fare però una proposta preliminare? Mi dica. Evitiamo l'uso del termine riforma, è una parola ormai talmente abusata che chiamiamola... ha perso ogni significato. Chiamiamola controriforma, se vuole. Ma no, ormai appunto è stata usata così, in modo così esteso, diffuso, applicato anche a ciò che riforma non era, oppure riforma che era tale sulla carta ma poi è stata di fatto abrogata dagli apparati che non l'hanno implementata, che tutto sommato, se usiamo altre espressioni, a me piace di più questa volta dire codice semplificato del lavoro, 70 articoli che sostituiscono 2000 pagine di norme affastellate. Se lei dice che professore... mi piace di più che riforma del lavoro. Senatore Chino, magari porta pure sfiga di riforma, chiamiamola codice semplificato del mercato del lavoro e va bene così. In ballo c'è, a livello di discussione politica, soprattutto l'articolo 18, ma noi, visto che l'articolo 18 è fondamentale, diciamo, nella discussione politica e anche, se vogliamo, nell'impostazione ideologica, ma poi nella pratica viene utilizzato, per fortuna o purtroppo, pochissimo, io vorrei parlare anche del resto di questa riforma. No, ma questa però è una notazione, se mi consente, sbagliata. Prego, ti mancherebbe. Il fatto che ci siano in Italia soltanto 10.000 controversie di lavoro ogni anno in materia di articolo 18 non vuol dire niente. Il numero delle controversie, come diciamo ci mostra la teoria dell'autoselezione delle parti litiganti, è frutto soltanto dell'incertezza circa l'esito del giudizio, ma al limite una norma di cui fosse certo l'esito di qualsiasi controversia potrebbe avere un'efficacia totale, assoluta, e non avere neppure una sola controversia in giudizio. Quindi quel numero dei 10.000 casi non ha senso. Quel che conta sono i 9 milioni di rapporti di lavoro ai quali l'articolo 18 si applica e come. Okay. E il fatto che le controversie siano poche vuol dire soltanto che ci sono che non ci sono incertezze su quello che sarebbe l'esito dell'eventuale giudizio. Quindi dobbiamo chiedere se questa norma ha un senso positivo nel nostro paese, e io le dico, non è tanto la singola norma quanto la cultura che le sta intorno, di cui quella norma è un po' la chiave di volta. Allora, adesso è la cultura della job property, cioè la cultura che ha trasferito il modello dell'impiego pubblico nel settore privato, nelle aziende con più di 15 dipendenti. Poi è stato temperato questo modello, ovviamente, però quella cultura ha generato dei danni, danni per i lavoratori, non solo per le imprese, per tutti quanti, perché ha ridotto la mobilità nel mercato del lavoro, ha fatto sì che ognuno tenda a fermarsi nel primo posto stabile in cui si trova perché il mercato è più vischioso, e anche questo riduce la produttività, perché invece la mobilità del lavoro fa sì che le persone tendano a collocarsi sempre più vicine al posto dove la loro produttività certo. è meglio. Allora professore, ho la pubblicità, ho capito cosa dice lei, dice attenzione, il fatto che si applichi a un numero di casi relativamente ridotto però non ti dà la portata dell'importanza, perché si applica a 9 milioni di contratti di lavoro e ha, al di là di quelli che poi fanno ricorso all'articolo 18, ha irrigidito, reso più vischioso tutto il mercato del lavoro italiano, perché sostanzialmente la job property che lei cita vuol dire che tu ritieni che il lavoro sia di tua proprietà, e quindi essendo quando hai quel contratto stratutelato tendi a non spostarti più e a bloccare qualunque tipo di mobilità interna. Ragionevolmente dovrebbe venire un meccanismo in cui si supera l'articolo 18, in cui la maternità è per tutti, quindi si allargano le tutele. Il tema è consentire anche a chi ha la partita IVA di avere la maternità. Dare delle regole che siano sostanzialmente uguali per tutti. Idem per chi viene licenziato. Tu perdi il posto di lavoro, che tu sia sotto i 15 dipendenti o sopra i 15 dipendenti, avere le stesse garanzie. Entro il 15 ottobre deve essere chiaro qual è l'iter normativo. Il messaggio che noi diamo agli investitori e ai mercati internazionali è mercato del lavoro che non è alla spagnola di libertà totale e salari che si abbassano, che tu non puoi continuare a dire che il nostro modello è un paese che ha il 25% di disoccupazione. Cioè, alla fine è stata una ubriacatura collettiva per cui la Spagna è la Spagna è la Spagna. Poi mi dispiace per il mio amico Rajoy, non c'è niente di polemico. Altri pensano che noi dovremmo fare come la Spagna. In Europa c'è qualcuno che dice l'Italia deve essere come la Spagna. No, l'Italia è una manifattura straordinariamente forte, ha un'effervescenza, un dinamismo, comunque anche in un momento di crisi, penso alle città che continuano a essere lì. L'Italia è un'altra cosa. Noi abbiamo presentato l'emendamento per favorire il lavoro della Commissione al Senato, cercando di cogliere quella che era la discussione che si è realizzata e per fare in modo che questa discussione arrivi il più presto possibile ad una conclusione, quindi la parte del governo da questo punto di vista credo si possa dire che è stata fatta pienamente. Adesso, come ha fatto fino ad ora la Commissione Lavoro al Senato, ha fatto un ottimo lavoro perché ha migliorato il testo che precedentemente era stato depositato intervenendo su tutti gli altri articoli, credo che sia sicuramente in condizione di fare la stessa cosa su questa parte. Quando faremo i decreti prenderemo la decisione di quel momento, in questo momento dovevamo rendere, come posso dire, chiara e definita la materia e siamo intervenuti da una parte dicendo in maniera esplicita che lavoriamo su un testo semplificato sui temi dei contratti e dei rapporti di lavoro e che c'è il contratto a tutele crescenti, avendo tolto dal testo gli elementi che lasciavano, come posso dire, più elementi di incertezza sulla sua pratica attuazione. Questo è quello che volevamo fare e l'abbiamo fatto. Ma c'è un rapporto tra il contratto a tutele crescenti, Ministro, e l'articolo 18? Dal punto di vista tecnico sì. Però si rende conto che inevitabilmente ci saranno strumentalizzazioni che già ci sono sull'articolo 18, quindi il governo non può aspettarsi adesso dei mesi di polemica continua. Adesso, quando sarà il momento, discuteremo anche di questo. Allora, professor Ichino, io onestamente, senatore Ichino, non ho capito una cosa, ma sto articolo 18 cambia o no? Perché glielo dico, abbiamo appena sentito le dichiarazioni del Presidente del Consiglio di oggi sul lavoro regole uguali per tutti. E va bene, poi il Ministro del Lavoro Poletti ha detto c'è un legame tra l'introduzione del contratto a tutele crescenti e l'articolo 18, sì, c'è un legame. La decisione arriverà con i decreti attuativi. Poi però il responsabile economico del PD, Filippo Taddei, ha detto guardate che Renzi non ha detto abroghiamo l'articolo 18, ha parlato di estendere le tutele e superare l'apartheid. Allora, lei che è dentro non è che tifi, però voglio solo sapere, lo levate o no? Cioè, in parallelo le tutele crescenti per cui tutti avranno più stanno in un posto di lavoro, maggiori tutele, fino ad arrivare non a due lavoratori con le stesse mansioni, uno stratutelato perché è entrato 10 anni fa o 15 anni fa, e il collega della scrivania accanto che non ha nessuna tutela perché è entrato un anno fa, e questo è corretto. E se ho ben capito, di pari passo verrà anche modificato l'articolo 18 con un in qualche modo risarcimento solo economico. Prego. Le dico come stanno le cose. Sì. Allora, noi veniamo da un regime in cui l'unica tutela per chi lavora era costituita se lavorava in un'azienda con più di 15 dipendenti, in una ingessatura del posto di lavoro. Poi ogni tanto arriva l'acquazzone, il gesso si scioglie, e anche quello era nei pasticci, ma in linea generale c'era questa ingessatura come unica forma di protezione, peraltro estesa solo a meno di metà dei lavoratori italiani, 9 milioni su 19 milioni di lavoratori sostanzialmente dipendenti. Ora noi sostituiamo questa tutela, questa protezione che riguarda meno di metà dei lavoratori interessati e che è una protezione anche per questi 9 milioni, è una protezione difettosa, perché poi ogni tanto le aziende chiudono o i licenziamenti collettivi le fanno anche le grandi aziende. Lo sostituiamo con un sistema di protezione diverso che prevede un costo di separazione a carico dell'impresa, che potrà avere anche due componenti diverse, per esempio in una fase iniziale un'indennità di licenziamento che va crescendo col crescere, per esempio un mese di retribuzione per ogni anno di anzianità, e poi dal quarto anno in poi un 15% di trattamento complementare di disoccupazione, in modo che il trattamento di disoccupazione passa dal 75 al 90%. Questa è un'ipotesi, naturalmente poi il governo avrà una certa discrezionalità nel dosare, nel stabilire i parametri, e questo è sul versante del rapporto di lavoro, ma a questa protezione se ne aggiunge un'altra fuori dal rapporto di lavoro, costituita dalla possibilità per il lavoratore di scegliere l'agenzia specializzata che preferisce tra quelle accreditate presso la regione e avere la possibilità di pagarla con un voucher, un buono a carico della regione che sarà piuttosto pesante, perché si parla, a seconda del grado di collocabilità del lavoratore, di un buono da 2 a 5 mila euro, almeno queste sono le tariffe che circolano oggi nella regione Lazio, dove già hanno incominciato ad attivare questo meccanismo. Scegliere la agenzia specializzata, che però verrà retribuita, cioè si vedrà pagato il voucher solo a ricollocazione avvenuta, quindi questo meccanismo riqualificherà la spesa pubblica in questo settore, perché o c'è il risultato e allora si paga, oppure non, il voucher non viene pagato, quindi l'agenzia sarà anche fortemente interessata a raggiungerlo il risultato. Dunque noi offriamo ai lavoratori non soltanto un sostegno del reddito che andrà crescendo col crescere dell'anzianità del lavoratore in azienda, ma anche un'assistenza intensiva data da chi la sa, conosce il mestiere. Ecco, questo è il nuovo sistema di protezione che, diciamo, segna un voltar pagina rispetto al regime della job property di cui abbiamo parlato. Però prima, mi dica una cosa. E possiamo chiamarlo il sistema della flexicurity, cioè un sistema che coniuga il massimo possibile di flessibilità delle strutture produttive con il massimo possibile di sicurezza del lavoratore nel mercato del lavoro. E questa protezione la diamo a tutti quanti, non solo a meno di metà, come quelli che erano protetti con l'articolo 18. Perfetto. Reintegrazione nel posto di lavoro. No, un attimo, ho il traffico, professore, perché bisogna di risposte un po' più brevi. Ho il traffico e poi mi dà la risposta sulla reintegrazione, quindi l'articolo 18. Vorrei capire se c'è timore, secondo lei, nel governo di cui anche lei fa parte, a dire che l'articolo 18, con un contratto diverso a tutele crescenti, come lei ha ricordato, che non prevede solo le maggiori tutele finché più tu lavori in un posto di lavoro, ma prevede anche delle politiche di riqualificazione, di accompagnamento, che lei ha chiarito, dell'assegno, che dovrebbero rendere più flessibile anche poi e più veloce il trovare lavoro, se alla luce di questo l'articolo 18 debba diventare un'altra cosa. Allora, professor, professor Ichino, un minuto e mezzo, mi dica se a quel punto può essere levato l'articolo 18, ma non riesco più a sentire il professor Ichino, cercheremo di recuperarlo perché sta rispondendo al Senato. Vi faccio ascoltare però invece cosa ha detto un membro del governo, com'è il sottosegretario al lavoro Teresa Bellanova, proprio sulle polemiche sull'articolo 18. Le tutele aumenteranno mano a mano che aumenterà l'anzianità dei lavoratori, l'anzianità di servizio dei lavoratori, e questo è quello che è affidato poi ai decreti attuativi. Oggi nell'impianto complessivo c'è esattamente questo, si fa un esplicito riferimento, perché noi parliamo, non abbiamo paura delle parole e di affrontare, perché non siamo né conservatori né innovatori sprovveduti, siamo persone che vogliono dare una soluzione a problemi che si porta avanti questo paese da molto tempo, uscendo da una polemica insopportabile. Noi parliamo di un testo semplificato, di una riscrittura, e parliamo di mansioni, parliamo di controllo a distanza, e si fa riferimento evidentemente ad articoli dello statuto dei lavoratori, e parliamo appunto del contratto a tutele crescenti, che non è la negazione dei diritti. La tutela piena dopo quanti anni di contratto scatta? Questo è affidato, noi oggi con il testo che ho depositato per il governo nella commissione e lavoro, entro le 14 i deputati potranno presentare eventuali subemendamenti, e spero che domani mattina alle 8:30 affronteremo voto di merito su questo emendamento. Noi quello che abbiamo presentato è la richiesta di una delega al governo per riformulare questi punti. Da che si capisce che ancora non hanno idea di quando, cioè, se no dimmi la data subito. L'intervista di Simone Spezia alla sottosegretaria del lavoro Teresa Bellanova, tutto è affidato alla delega, quindi c'è l'impianto generale ma non i tempi. Dopo quanti anni io divento un dipendente a tempo indeterminato? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Non riusciamo più a rintracciare il senatore Ichino, lo riavremo ospite. È chiaro, allora, dunque, è chiaro l'impianto generale, lo dico a chi mi sta giustamente chiedendo altre spiegazioni. E tutele crescenti è una di fatto rivisitazione, modifica dell'articolo 18. A me sembra anche chiaro il ragionamento, cioè se si estendono le garanzie, le sicurezze, e si crea non più un lavoratore di serie A stratutelato e uno di serie B, si può modificare anche l'articolo 18, a patto che poi vengano anche fatte le cose che riguardano le agevolazioni per cercare un nuovo posto di lavoro, l'assegno e quant'altro. Ci sono tante altre domande però, ma ripeto, l'intervista al sottosegretario al lavoro Bellanova fatta da Simone Spezia a Effetto Giorno la dice lunga sul fatto che quanto siano crescenti queste tutele, quando arriveranno le tutele a essere quando un lavoratore avrà un contratto, diciamo, che equivale al tempo indeterminato di adesso, non è chiaro, non c'è un anno, non abbiamo mai visto una cifra dopo 3 anni, dopo 5 anni, dopo 7 anni. Così come ha ragione chi scrive, mi scusi, ma quando è che io potrò a quel punto avere un mutuo dalla banca? A che punto delle tutele crescenti? Perché poi i problemi che riguardano i lavoratori, quelli non a tempo indeterminato, sono anche e soprattutto questi, e mi sembra che una riforma del mercato del lavoro senza un accordo col mondo bancario che dica bene, però tu non puoi solo chiedere la busta paga dell'assunto come garanzia, perché sennò è ovvio che da questo punto di vista continua a essere penalizzato il lavoratore, o almeno avere un percorso che vada a riconoscere le crescenti tutele che ha questo lavoratore nei confronti dell'azienda, e quindi il fatto che l'azienda ci tenga ad averlo. Beh, poi se no tutto si blocca, perché uno dei veri problemi di chi ha contratti con poche tutele molto flessibili è che va in banca e nessuno gli dà un mutuo. Ce lo scrivete tutti i giorni, avete ragione. Mi sembra che su questo sia ancora presto, speriamo che non si fermi tutto, diciamo, all'impostazione generale, e che arrivino presto anche i decreti attuativi. Sono contrari comunque i sindacati, la Camusso ha detto l'articolo 18 è solo lo scalpo per i falchi da offrire ai falchi dell'Unione europea, faremo anche una mobilitazione unitaria se ci riusciamo, in accordo con CISL e UIL. Landini ha detto se necessario siamo pronti allo sciopero se il contratto tutele crescenti toglierà l'articolo 18, è una presa in giro. Angeletti ha detto il decreto è una stupidaggine, Renzi non ha la forza, sembrava che si volesse eliminare l'articolo 18 per decreto, è una stupidaggine in sé, Renzi non l'ha fatto perché non ha la forza. Questo vale anche per la riforma della pubblica amministrazione che per ora si è limitata al taglio dei permessi sindacali. Tutto sembra urgente, intanto continuiamo a perdere posti di lavoro. Adesso andiamo sulla borsa e poi sulla moda, che è uno dei settori che sta andando meglio dell'anno scorso quest'anno. La borsa, dicevo, più 1,55% a Milano, la migliore in assoluto in Europa, Parigi più 0,50%, Francoforte più 0,30%, Londra meno 0,17%, l'America invariata, molto bene Wall Duty Free, più 4,75%, e bene in generale le banche. Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Prima di tutto però vorrei toccare il tema su cui magari torneremo, di Alibaba, perché Alibaba, che sta facendo un roadshow, quindi una presentazione agli analisti, è arrivato a Londra, è il colosso dell'e-commerce cinese, è la prima vera sfida globale che la Cina nel settore dell'e-commerce lancia al padrone incontrastato che sono gli Stati Uniti. Ebbene, Alibaba potrebbe chiudere in anticipo la raccolta degli ordini a fronte di un boom della domanda. Pensate che il prezzo del collocamento è stato rivisto al rialzo a $66-68 per azione, e potrebbe raccogliere dal collocamento in borsa Alibaba $25 miliardi. Se fosse così sarebbe il collocamento più grosso, quindi la maggiore IPO al mondo come raccolta immediata. Chiuso con Alibaba, veniamo a Wall Duty Free, a casa nostra, e le banche. Paolo. Sì, per quanto riguarda Wall Duty Free, ieri è arrivato l'annuncio dell'uscita entro la fine dell'anno dell'amministratore delegato José María Palencia, e il mercato ha subito iniziato a scommettere su possibili operazioni straordinarie in arrivo, ipotizzando magari qualche dissidio proprio su questo tipo di operazioni con l'attuale amministratore delegato. Del resto lo stesso gruppo ha annunciato l'intenzione di mettere maggiore enfasi alla crescita organica e la possibile combinazione con altri operatori, e di qui quindi le speculazioni del mercato. Sono state poi, come dicevi tu, tutte in rialzo le banche. Ricordiamo, domani ci sarà la prima delle nuove aste a lungo termine della BCE, quindi ovviamente per le banche l'occasione di fare il pieno di liquidità a tassi convenienti, liquidità che ovviamente secondo proprio il meccanismo dell'asta dovrà essere girate alle imprese, quindi vedremo se si tradurrà anche in un rialzo dei prestiti alle imprese. Comunque Unibanca oggi ha guadagnato il 3,9%, il Banco Popolare il 3,1% e BPM il 2,8%, bene anche Mediobanca più 2,7%. Qui c'è una notizia a parte: Mediobanca oggi ha annunciato i conti dell'esercizio 2013-2014 con un ritorno all'utile dopo la perdita dell'esercizio precedente. Allora, su Alibaba o Alibaba, mi state segnalando che si pronuncia Alibaba senza l'accento, avete ragione, immagino, viste le segnalazioni. Purtroppo anch'io da piccolo le favole le ho ascoltate, e da piccolo, e quelle da grande mi interessano meno, e dico Alibaba, Alibaba. Mi correggo. Andiamo avanti invece sugli altri titoli, bene, appunto, oltre alle banche anche CNH Industrial più 3,60%, delle banche dico solo Unibanca più 3,80%, Azimut più 3,6%, come il Banco Popolare più 3%, Pop Milano più 2,80%, Mediobanca più 2,70%, Unipolsai più 2,5%, Intesa San più 2,5%, Intesa San Paolo più 2,1%, come Unicredit, Mediolanum più 1,80%, come la Popolare Emilia Romagna. Dicevo, Telecom Italia e anche Eni va bene oggi più 1,30% ed Enel più 1,25%. Telecom Italia più 1,56%. Sì, sono sempre attese novità sulla Telecom Novela? Esattamente, il Brasile è sempre in attesa, nulla di nuovo, del resto alla fine si è un po' ridimensionato l'andamento del titolo, che è di fatto in linea con l'indice generale, quindi anche il mercato attende novità concrete. Ecco Paolo, dimmi una cosa, visto che adesso parleremo della moda che sta avendo un buon fatturato nel 2014, oggi si inaugura la settimana milanese della moda e dell'occasione, però tutti i titoli del lusso, non c'entra con i dati diciamo sull'anno, però sono andati male oggi: Tod's meno 0,80%, Moncler meno 0,70%, Ferragamo meno 0,70%, mi posso fermare qui. Poi c'è anche Pirelli che perdono 0,40%. Sì, oggi il settore del lusso tutto in ritirata, diciamo che da una parte ci sono i timori sull'andamento dell'economia visti gli ultimi dati, ma poi c'è un fatto proprio molto specifico, cioè sono i dati del colosso svizzero Richemont, che a Zurigo infatti ha perso il 4,11%, trascinando al ribasso tutto il settore europeo, che ha annunciato nei primi 5 mesi dell'anno vendite in aumento del 4%, andamento che però segna un rallentamento rispetto alla crescita registrata fin qui, che quindi è stato visto negativamente dagli investitori, che quindi hanno alleggerito il peso della propria esposizione sul settore del lusso. Allora, grazie Paolo Paronetto. I migliori e peggiori: Biofarma più 15%, SEAT pagine gialle più 7,70%, Agronomia più 6,10%, fronte opposto Green Power meno 7,70%, IKF meno 5,20%, El Venture Group meno 4,14%. Adesso c'è il traffico e poi parliamo del settore della moda, l'industria della moda, che ha toccato quasi, toccherà nel 2014, stando alle proiezioni, i 62 miliardi di euro di fatturato, con un aumento del fatturato del 4%, che non è poco con la situazione che viviamo. E un aumento dell'export, che è il vero motivo per cui la moda italiana, l'industria della moda italiana va bene, di quasi il 5%. C'è chi mi chiede ancora sulla riforma del mercato del lavoro, secondo me dopo quanti anni si potrebbero dare le tutele massime. Non lo so, immagino una cifra ragionevole, nel senso 3 anni, 4 anni, non faccio il legislatore, però mi piacerebbe avere un'indicazione su questo, perché tutele crescenti, per capire come e con che scatti. 3 anni sono troppo pochi, sono meglio 5, non lo so, ripeto, non faccio né il giuslavorista né l'economista del lavoro, però è importante dare una data, perché quello poi permette anche di pianificare poi una vita. Tanto una buona notizia, le cerchiamo con l'umicino, però più 4% nel fatturato dell'industria della moda, più 5% l'export, si toccano i quasi 62 miliardi di fatturato, di cui 47 miliardi vanno all'estero, per cui è un fatturato che poi va quasi tutto verso le esportazioni. Beh, è un buon dato, anche perché stanno aumentando di molto per quello che riguarda invece lo shopping degli stranieri in Italia. I cinesi più 18%, i russi restano i primi ma sono in calo chiaramente per via anche della vicenda ucraina. Nei primi 6 mesi comunque vanno bene le vendite degli stranieri che arrivano in Italia, ma soprattutto delle imprese della moda italiana che esportano all'estero. Questo nonostante i consumi degli italiani per abbigliamento continuino a scendere. Pensate che quest'anno c'è chi stima un calo del 10% rispetto al 2013, anche se tengono bene le cosiddette high street, Milano, Roma, Venezia e Firenze. Allora, siamo in collegamento con il presidente del sistema Moda Italia, Claudio Manenzi, buonasera. Buonasera. Dunque, lei presiede l'associazione delle imprese del tessile e abbigliamento, quindi non solo i marchi più celebri, famosi della moda italiana, ma proprio l'industria del tessile e dell'abbigliamento. Lei si ritrova in questa fotografia, cioè tutto sommato il 2014, dopo anni in cui avete avuto dei dati problematici, è andato, sta andando abbastanza bene, Manenzi? Sì, diciamo che la fotografia che lei ha fatto è perfetta, tant'è vero che tutta la crescita che abbiamo quest'anno, che insomma in effetti è notevole, visto altri settori, è solo dovuta esclusivamente all'estero, per cui all'export. In Italia abbiamo ancora un calo, per cui c'è anche qui una sperequazione tra le aziende che hanno una grande propensione all'export e quelle che non le hanno, per cui qui devo ancora lavorare, e dove stiamo lavorando è per cercare di far sì che le aziende possano sempre andare più all'estero. All'estero ci sono grandissime opportunità di business, perché c'è una grandissima voglia di prodotto italiano e le nostre aziende lo stanno soddisfando. Su questo poi torniamo sull'estero, però i consumi interni invece mi sembra che Li riteniate persi anche per il 2014? I consumi interni sono in calo, saranno in calo ancora nel 2014, stimiamo tra il 7 e il 10%, in effetti queste sono le situazioni. Giustamente, come diceva lei, da questo sono fuori le aree dell'uso delle grandi città come Milano, Roma e Venezia, ma questo perché la maggior parte, direi più dell'80%, sono acquisti fatti da stranieri, per cui di fatto è come se fosse, cioè, le dice i negozi delle città turistiche in realtà non vengono frequentati dagli italiani ma dagli stranieri, ecco perché diciamo che nel quadrilatero milanese, piuttosto che si ha una vendita che tocca quasi il 90%. 90% a stranieri. Cioè, quindi le varie via Condotti, via Monte Napoleone, Venezia, in zona San Marco, via Tornabuoni, praticamente i negozi esistono per gli stranieri. Esistono per gli stranieri ed esistono per i grandi buyer stranieri che guardano a queste vie come una vetrina del Made in Italy, per carità, però ormai lì i commessi potrebbero essere tranquillamente tutti stranieri, non cambierebbe nulla, nel senso che poi la clientela al 90% è straniera. Senta, venendo invece all'export, voi avete, perché ho visto alcune dichiarazioni un po' preoccupate sul fronte russo, la Russia è un mercato fondamentale per voi. Ma Russia, prego. Diciamo che è un mercato molto importante, sicuramente uno dei mercati che negli ultimi anni ha dato più grandi soddisfazioni, è chiaro che invece in questo momento ci preoccupano due fattori. Uno è il discorso di eventuali sanzioni e per cui la possibilità di che il mercato in qualche modo si possa chiudere. E l'altro è che comunque ci sia anche una minor visita da parte di russi in Europa e per cui anche in Italia. Ecco, l'altro fronte invece della Cina, di quello si parla molto meno, nel senso che c'è una difficoltà, c'è un mercato tra virgolette ancora non maturo per certi marchi, un po' più di nicchia, di qualità, di alta moda italiani e magari più pronto alle grandi catene e grandi marchi internazionali, oppure c'è stata un'insufficienza nella presenza italiana lì nel settore moda e abbigliamento? Guardi, la Cina deve essere affrontata in un modo diverso perché sono ancora molto dipendenti dai grandi marchi, per cui le piccole e medie aziende, per cui dei marchi non ancora ben consolidati in mercati importanti in Cina faticano o se non faticano trovano dei partner di distribuzione che poi, perché sono dei marchi non affermati, diciamo così, che a livello contrattuale vengono un pochettino vessati, per cui in effetti è un mercato molto difficile, molto legato, direi che da quel punto di vista della percezione che ha il consumatore cinese è molto legato ai grandi marchi, per cui è difficile. Si stanno avvicinando adesso le città, le cosiddette città B, per cui non le più le grandi metropoli cinesi. Queste, devo dire, in questo momento anche queste prediligono i grandi marchi, per cui è difficile riuscire a entrare in questo mercato senza essere presenti, per esempio, in modo significativo nelle vie principali delle città italiane o europee. Allora, un'ultima domanda per lei, Bramanenzi. Nel promuovere la moda italiana all'estero e in questi mercati distanti, non è che manchi anche una struttura come le spalle un po' più grosse da parte degli enti che devono promuovere? Cioè, ci siete voi, ci siete la Moda Italia, c'è la Camera della Moda che si occupa a Milano delle sfilate, Camera Nazionale della Moda. Cioè, lì, cioè, non è che forse anche qui rischiamo un po' la parcellizzazione? Ci sono i singoli produttori che vanno delle volte in maniera autonoma. Cioè, che manchi un po' di massa critica anche in chi deve promuovere, portare le aziende, fare operazioni di lobby positiva, no? Vero, in parte vero, stiamo cercando di ovviare a questo problema, cercando di circoscrivere ognuno le proprie competenze. Abbiamo fatto un ottimo lavoro sugli Stati Uniti, dove c'è questo accordo che in un paio d'anni dovrebbe portare all'azzeramento dei dazi di DIP. Su questo abbiamo lavorato insieme al Ministero dello Sviluppo Economico e l'ICE, facendo delle promozioni sia sul paese, per cui se, in America, ma qua, anche in incoming, per cui promuovendo la possibilità ai grandi buyer americani di visitare le nostre aziende. Non solo, abbiamo fatto anche una decina di incontri sul territorio, su tutto il territorio italiano, per cercare di spiegare alle piccole e medie aziende come cosa vuol dire esportare negli Stati Uniti, perché comunque è molto complicato, per cui anche un'operazione diciamo così di informazione e di divulgazione di come si fa. Questo è molto importante, è un primo passo, cercheremo di farlo anche per altri paesi. Si può fare molto di più, si può collaborare molto di più tra noi che rappresentiamo l'industria e rappresentiamo non solo, ma abbiamo rappresentanza anche nei guardi del governo con Camera della Moda, ma devo dire che abbiamo iniziato. E già solo essere consapevole che si può fare di più è già un passo avanti. Io spero che continuate così. Grazie anche al Presidente del Sistema Moda Italia, Claudio Marenzi. È veramente tutto. Devo dire a un ascoltatore che mi ha scritto 20 messaggi ricordandomi che sono un leccapiedi, lecca qualcos'altro, ho capito, ne basta uno, ce lo dico per lei che poi spende inutilmente, basta scrivere una volta, lei è un leccapiedi e noi prendiamo atto. Slurp, ci sentiamo domani dalle 17 in poi per un'altra puntata di Focus Economia. Radio 24, la passione si sente.